Sì, sì, abbastanza spaventoso. Ma deve essere comunque... solo accetti solo esponenti della Sì, no, in realtà non si può dire così, però sì. Se no non ha piacere. Io non posso fare il coxo spaziale con un co-conduttore. posso farlo con un co-conduttore temporaneo, magari. Sessismo. Comunque sì, esatto. Sessismo. Pasquini è sempre stato un po' sessista. Sì, no, esatto. D'altra parte, esatto. È un falso femminista, lo sappiamo da sempre. Sono un falso femminista, esatto. Su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Ma siamo qui con un sacco di ospiti, infatti. Esatto, di eccezione. Allora, Daniele Ismaele Cabri, perché voglio presentarlo, perché io l'ho seguito pazzescamente con entusiasmo durante la sua partecipazione al contest di Luca Rossi. Infatti, che non no, mi ricordo è stato... più come si chiamava questo contest. Master Artist. No, è stato un piccolo capolavoro, devo dire. Allora, il nostro assiduo Giancarlo Norese, sì, che saluto, dice che, ma naturalmente lo dice per lusingarci, sì, che lui è sopravvissuto al lockdown grazie a noi, ma non è vero, naturalmente. Invece io sono sopravvissuta grazie al contest di Luca Rossi. Vedi? Che sì, non sì, è vero anche quello, naturalmente. Comunque, per chi si chiedesse, ma di che cosa parlano questi? Stiamo parlando di arte contemporanea. Ecco. Che sia chiaro che stiamo parlando di arte contemporanea. E non è finita qui, perché abbiamo anche la nostra ascoltatrice unica. Numero uno, esatto. La prima, cioè forse, la, più che l'unica. La nostra ex unica ascoltatrice. La curva. La curva nord dell'Umbria. La curva nord delle Marche. La nostra Alice Mucichini, Susi Muso Grigio. Eh già. Cosa fai da queste parti? Faccio l'assistente, la porta borse di Stefano W. Pasquini. Grazie. Allora in questo caso mi devi per forza sostituire tu. Se c'è una borda borsa deve sostituire. La forlì è comoda. Tra l'altro io vado nelle Marche, lei viene in Emilia, è perfetto. Cioè, neanche a farlo apposta proprio stasera. No, infatti. È perfetto. Tre tessere che combaciano nel mosaico. Sì, no, tra l'altro Pasquini mi ha appena. Questa magari non la diciamo. Ti devo dei soldi, diciamo così, vero? Ah, sì, mi devi dei soldi. Questa mi manca. Mentre invece io vi devo dire che è uscito un pezzo che si chiama Between There and Here, di cui Jenny Owen Youngs, la nostra cantante unica è co-scrittrice, come si dice co-writer in italiano? Co-scrittrice? Co-autrice. Grazie, fortuna che abbiamo i co-scritti non sono quelli che vanno a militare. Fortuna che abbiamo qualcuno che conosce l'italiano. Fatto sta che comunque è la coautrice insieme a questo nome impronunciabile Hrishikesh Hirway, che è appena uscito questa canzone che si chiama Between There and Here, e adesso naturalmente vi tocca di ascoltarla, per cui scusatemi tutti, ma la metto su. Non funziona. Ti ha tradito. Dopo 379 puntate in cui ha cantato solo lei, ha detto basta. Adesso la sostituta. Adesso ritestiamo, fammi un po' vedere. No, mi sembra proprio che non gli piaccia. No, assolutamente. Allora niente. Allora mi tocca di farvi sentire Black Swans di Paolo F. Bragaglia, il cui nuovo disco The Man from the Lab è in uscita il 5 novembre, cioè oggi quanti ne abbiamo? 18? Sì. 18 ottobre. Noi di Coxo Spaziale abbiamo. Cosa succede? Mi sa che è già partito. È stato l'equinozio settembre. Noi abbiamo questa anteprima di cui ringraziamo Peyote Press perché ce l'ha mandato, e dunque noi siamo i primi a poter ascoltare questo Black Swans che adesso vi faccio sentire. Eccolo lì. Your life. Avevo intenzione di abbassarla un po' prima, ma mi sono un po' incartapecorito con il mixer, tanto per cambiare. Tanto per cambiare. No, anche perché abbiamo Daniele Cabri che qua c'ha un sacco di robe da raccontare, e non possiamo perdere troppo tempo ascoltando un gran pezzo, che questo era Black Swans di Paolo F. Un pezzo Bragagna. Molto vario. È bello perché è vario. Molto vario. Sì, mi sono sentito un po' negli anni Ottanta, io non so voi. Ma sì, un pochino sì. Ma tu non eri neanche nata negli anni Ottanta. Sì, magari. Forse Susy Musogrillo. No, infatti dicevo lei. Ah, sì, no, lei no. Giustamente. Ero nata. Eri nata però appena in fascia, da poco, però da poco. Esatto. Invece Daniele, hai inaugurato la settimana scorsa la settimana scorsa hai inaugurato una personale che si chiama Ad Lunam, a cura di Elisabetta Roncati e Maria Chiara Wang, allo studio Cenacchi, che è una galleria che io confesso la mia ignoranza, non conoscevo, infatti. Ma mi ha fatto molto piacere, giuro, mi ha fatto molto piacere conoscere Jacopo Cenacchi, il gallerista, e anche vedere questa mostra fantastica. La mia prima domanda è una, cioè, un contadino come te perché mette un titolo latino così ieratico? Vabbè, scusa, a me sembra intuitivo, però adesso sì. Lasciamo rispondere lui e poi magari. Prima di tutto perché l'idea non è stata mia. Ah, ecco, vedi. È stata di Maria Chiara, della grande Maria Chiara. Della grande Maria Chiara, che salutiamo. Mm. E... ma forse ha seguito le opere finali e i racconti che gli ho fatto io, e dunque è andata su quello. Ho capito. Per aspera Ad Lunam, giusto? Ma sì. Scusa, i contadini da sempre si orientavano con il scorrere delle stagioni, infatti. La luna, il sole. No, ma infatti raccontaci di queste lune che hai messo nel piano superiore della mostra, perché poi adesso ce la devi anche descrivere la mostra, perché sai, in radio non si vede bene, sai? No, non si riesce. Non si riesce bene a vedere la mostra. Cosa hai portato in questa galleria dalle tre stanze non proprio piccole? Dunque, ho portato un'installazione enorme che è la Lattebra, che diciamo è formata dalle pelli e da degli steli di legno che incastrati assieme formano una mezza cupola rivestita di pelli animali, dove con il fuoco ho inciso e disegnato figurazioni legate a ritratti di miei paesani, scorci di paese, animali, oggetti quotidiani di lavoro, di un mondo agricolo da far west, come direbbe Guccini. E nell'ultimo piano dello stabile della galleria ci sono queste famose lune, che in realtà la vera grande autrice sarebbe stata mia moglie Nadia, che durante il lockdown si era messa a fare panificazioni a oltranza. E una sera io, così posando lo sguardo sui fogli da forno dove lei metteva il pane per poi portarlo dentro al forno, sono rimasto affascinato. Direi che ho avuto proprio la visione di qualcosa che poteva essere una luna, un sole, comunque qualcosa di veramente molto bello. E ho visto la mostra praticamente che abbiamo fatto l'altra settimana nel pane di tua moglie, esatto. Per cui la mostra in realtà è sua, no? In buona parte le lune sono sue. No, io poi ho rubato, gli artisti devono rubare e ho rubato. E a chi si ruba si ha rubato. Esatto, donne, no, ma infatti gli artisti maschi rubano sempre. Non è che dici il contrario. Non cioè, è voglio il contrario. Dire, chi è che ha inventato l'arte astratta? Kandinsky o... come si chiama lei? Come cavolo si chiama? Io non mi ricordo più. Non so cosa vuole dire. L'inventrice dell'arte astratta, dai. Abbiamo dei problemi di memoria. Stasera è un po' così. Ma anche tutte le altre sere, solo che le altre sere non siamo in radio, allora non se ne accorge nessuno. Esatto. No, in effetti io confermo che sono così tutte le sere. mi dispiace per quelli che non ci possono sentire tutte le sere, ma penso che vada meglio così. Insomma. Ma anch'io mentre montavo la mostra devo aver perso tutti gli oggetti, gli attrezzi da Rocchetta a Bologna, andata e ritorno. Però io ho un'altra domanda per te, perché dovete sapere che sotto nel piano terra, che è la sala più grande di questa mostra, c'è un enorme igloo coperto da tutte queste pelli, sì, che sono un sacco, perché poi praticamente mi dicevi tu che sono 50-60 opere, esatto, che hai fatto nel corso degli ultimi 4-5 anni. Comunque ecco, volevo dirvi che Pasquini intendeva Hilma af Klint. Ecco, grazie. Ah, perché non. Cioè, hai dovuto farmi fare una pessima figura anziché aiutarmi. Però mi sembra giusto. Ah, guarda che avevo lasciato. Ho scritto cosa intendeva Pasquini con fantastico. Perfetto. Esatto. No, ma è un nome che io non riuscirò mai a. Forse me lo dovrei tatuare. Questo Klint. È difficile. È difficile. Irma comunque si chiama. Ilma. Anche il non me lo ricorderò mai. Comunque vabbè, fatto sta che è interessantissima lei, adesso che è stata presa se non sbaglio da Hauser & Wirth come l'estate di suo, è diventata molto più importante naturalmente. Adesso aspetteremo che anche Daniele verrà preso da Hauser & Wirth e finalmente la gente capirà quanto è importante lui come artista, perché mi dicevi che per un sacco di tempo non hai fatto mostre. No, tantissimo. Cioè ho avuto un periodo di 15 anni che avevo smesso anche di lavorare praticamente. Un periodo di 15 anni? Sì. Ah, però. Infatti. E come sei stato? Ti sei divertito? Ma da un lato stavo bene perché la tensione vivere. Così non. Dall'altro qualcosa mancava probabilmente. Certo. Ma posso sapere che cosa hai fatto in questi 15 anni in cui non facevi l'artista? Ah, facevo altro, sopravvivevo, era già abbastanza. Ok. No, ma noi vogliamo sapere nello specifico che cosa facevi per sopravvivere. Lavorava la terra, hai detto che è contegnino. No, io lo prendevo per il culo, figurati. Non ce lo dice. È che lui è un possidente, un proprietario amministrava i suoi beni, esatto. Rimane una zona oscura, ha fatto tipo 18 rimane una, rimane una zona oscura, rimane. Una zona oscura, ma infatti la zona di Tarkovsky è bene lasciare un po' di zone oscure. E dunque questa mostra fino a quanto dura, te lo ricordi? Dura fino al 20 di novembre. Fino al 20 di novembre. sembra che... E volevo proporre al gallerista di fare un finissage, che non ci avevamo pensato. Un finissage, cosa sì. succede nel finissage? Si entra tutti nudi dentro al tuo dentro al tuo... questo si potrebbe fare, perché già ci fai togliere le scarpe, sì, per entrare dentro l'igloo, sì. Ma la mia domanda cattiva era: come fa uno, cioè un artista che nel 2021 espone un igloo, come fa a farlo in Italia dopo Mario Merz, che non ha fatto altro che degli igloo? Perché quelli di Mario Merz li ho guardati poco. Praticamente ho avuto una perdita di memoria e non mi sono interessato, che l'avevo già fatto lui. Ma forse hai fatto bene, sai, perché... No, io la mia aveva un'emozione talmente forte che dovevo mettere queste pelli legate alla mia memoria più intima, e non ho guardato che Mario Merz aveva già fatto gli igloo. Ma io pensavo poi alla famosa Sweet Lodge, dove si fanno la capanna sudatoria agli indiani, sì. Perché io è vero, perché quello che sono riuscito a fare in questi 15 anni, dove avevo staccato di fare l'artista, no, sì. No. Dove avevo smesso di fare l'artista praticamente, sì. E ho difeso l'emozione di quando ero bambino, che avevo 5-6 anni, che mi guardavo in una televisione in bianco e nero degli anni 70, quei fantastici film di John Ford, dove c'erano gli indiani e i cowboy. E io sono rimasto di quando uscivo di casa, vedevo il western dietro casa, e tutti quei personaggi venivano ammantati con quella luce del film western che avevo visto prima di John Ford. Ho difeso quella luce lì e quell'emozione lì, e l'ho portata adesso per portarla sulla pelle. Ma che bello! Anch'io ero molto appassionata. Io vedo con quel filtro lì, ancora adesso riesco a vederli con quel filtro lì. Non mi sono lasciato corrompere nell'età adulta, per fortuna. Hai capito? Che poi comunque questa storia che uno non può fare l'igloo dopo Mario Merz è, cioè, anche un po' stufato, sì, no? Come dire, allora nessuno poteva più dipingere una Madonna dopo Masaccio, Raffaello, cioè, No, dopo Masaccio, hai ragione. No, avevo pensato a fare, la mia idea era fare una grotta, sì. Perché mi vedevo proprio come le grotte di Lascaux o di Altamira. Poi però a livello pratico ci voleva qualcosa che avesse veloce da montare, fosse leggero e fosse, avesse la cupola, che quella mi interessava, perché la forma circolare della terra, delle lune, dei soli, eccetera. Perciò alla fine ho detto: ma l'ideale è proprio fare una semisfera. Just because I love you don't mean that they won't leave you. Ed eccoci di nuovo in onda. Ed eccoci in onda. E scusami Daniele che ti ho segato per mettere le... Lo fa con tutti. Le exis, esatto. Mette la prova. Non prendertela perché è una cosa... Mette la prova alla memoria. Mettiamo la prova alla memoria. E, cosa volevo dire? No, che tanto non hai mica poi detto cose, no, vai, non ti sentivo, per cui magari quello che no, no, volevo dire che mi è venuto in mente adesso che in realtà sono tornato a fare le famose capanne indiane di quando ero bambino. Quando eri bambino? Che mi tiravo dietro i miei fratelli, i miei amici, i miei cugini e facevo tutte capanne, sempre, sopra gli alberi, giù. E adesso ho ripreso a fare capanne. Solo ma perché non ci siamo conosciuti quando eravamo piccoli? A me piacevano molto queste infatti cose delle capanne indiane, era proprio il mio mito dell'infanzia. Ah, io ero continuo. E adesso finalmente mi sono accorto, mi sono ripreso a farle. Sono regredito, sto regredendo. Ma è il bello della seconda età. Perché anche a me mi sta succedendo un po' così, sto un po' regredendo. E dunque, cosa dobbiamo dirci oggi? Questa cosa qua. Che ci sono un po' di cose da raccontare. Ovvero che giovedì 21 ottobre. Abbiamo alle 18 quello che stavo dicendo prima, la sala conferenza del Mambo, la presentazione del libro Cosa vedi dalla tua finestra di Arianna Fantin, un progetto di Arianna Fantin curato curato da Mili Romano, edito da Carta Bianca Editore di Faenza. Ti leggo tutto. Vedi dalla tua finestra nasce dal periodo di emergenza sanitaria e di reclusione obbligata dalle misure per il Covid-19. È stato un invito ad amici, artisti, curatori e studenti delle scuole di Pianoro e dell'Accademia di Belle Arti di Bologna a scrivere di sé e a riflettere sul presente fermandolo nella memoria, dando voce al disorientamento e a paura del tutto nuove. Il progetto di arte partecipativa ha ripreso un'azione di scambio epistolare realizzato nel 2013 da Arianna Fantin per Cuore di Pietra, la manifestazione di arte pubblica ideata e curata da Mili Romano. Ci saranno dei momenti di lettura in cui parteciperanno Andrea Aiello, Alice Balasini, Miranda Benetti, Arianna Bassetto, Ljubov Ermoleva, difficilissimo, Donatella Franchi, Rita degli Esposti, a cui si aggiungerà il contributo della band Il Parto delle Nuvole Pesanti con una lettera canzone. L'accesso all'incontro è libero fino ad esaurimento posti e questo è al Mambo in via Don Giovanni Minzoni 14. E dov'è? Qua, così. Dopodiché sabato invece al Gallery 16 o Gallery 16 a dir si voglia abbiamo alle ore 20 Crepax a 33 giri, presentazione del libro e inaugurazione della mostra a Bologna. Volo Libero e Gallery 16 vi invitano a Bologna sabato 23 ottobre dalle 20 alla presentazione del libro Crepax a 33 giri con presenza degli autori. La serata vedrà anche l'inaugurazione della nuova mostra che si intitola uguale Crepax a 33 giri con una selezione delle opere che Guido Crepax ha creato per il mondo della musica. Prenotazione consigliata e questo è Gallery 16 e come al solito in via Nazario Sauro 16 e come al solito troverete tutto su www.coxospaziale.blogspot.com. Dopodiché domenica 24 alle 17 l'Istituto di Cultura Germanica presenta Spiel und Sing, dialoghi di profughi di Bertolt Brecht. Qua c'è un altro pezzo tutto scritto in tedesco che non riesco a pronunciarlo, Flüchtlinge Sprache, composto durante il breve esilio dell'autore in Finlandia nel 40-41 e pubblicato postumo, è uno degli scritti più divertenti di Bertolt Brecht. Due tedeschi esuli dalla Germania, un fisico e un operaio, si intrattengono al ristorante della stazione di Helsinki sui più disparati argomenti, dal fascismo al comunismo, dalla pornografia alla lettura all'educazione, dalla birra alla dialettica di Hegel. La lettura teatrale degli attori Dario Turrini e Lorenzo Costantini è contrappuntata da musiche eseguite dalla violinista Ursula Schaar e dal pianista Matteo Matteuzzi. Questo è all'Istituto di Cultura Germanica in via De Marchi 4, ingresso ad offerta libera e come al solito troverete tutto sul nostro sito che è sempre quello. Basta. Basta, finito. Basta. Non c'è più un giorno libero. Non c'è più un giorno libero, infatti. Infatti, anche io non. Mentre invece la settimana scorsa, purtroppo non avevamo menzionato perché non sapevamo che sarebbe cominciata, c'è stata la mostra personale di Leonardo Santoli, che abbiamo avuto anche qui in trasmissione in passato all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, e io lo sono andato a intervistare, per cui mi muovi cuccate anche la tua intervistona. Sì, no, intervistina, dai, sono 3 minuti, per cui ascoltiamo cosa ci racconta Leonardo. Siamo qui con Leonardo Santoli, che venerdì scorso ha inaugurato una personale intitolata Paesaggi con gli occhi della memoria, a cura di Sandro Malossini, all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. Leonardo, cosa ci racconti di questa mostra? Questa mostra è un'occasione di far vedere una ricerca artistica mia fatta nel 2019, legata all'ambiente e legata ai paesaggi. Paesaggi della memoria, perché principalmente la maggior parte di queste opere sono legate all'Appennino tosco-emiliano, in particolar modo Monzuno, Montesole, i territori nostri qui vicino della montagna, vicino a Bologna. Oltre a questo legame della memoria affettivo, legato all'infanzia, all'adolescenza principalmente, c'è un legame negli sfondi di questi paesaggi, c'è un legame profondo con i miei segni e simboli arcaici, con le prime mostre che erano gli arcaici di fine secolo del critico d'arte Giorgio Cortenova. È una ricerca che ho sempre portato dietro ed è legata a queste forme un po' cannibaliche dell'arte e elettrizzate con i colori primari, rossi, gialli e blu. Che io mi ricordo dagli anni 80. Sì, principalmente dall'81-82. Queste erano forme, questi linguaggi erano legati molto, per esempio alcuni titoli erano pelli americane o pelli, per cui c'erano un po' culture diverse e segni diversi miscelati assieme, quindi la cultura sudamericana, la cultura indiana, pelle rossa d'America, indiana dell'India, dell'Oriente. In questa mostra ti sei affiancata a un poeta, Effio Alessio Gensini, che è qui con noi. Come mai? Cosa succede? Con Alessio ci conosciamo già da un 7-8 anni, e la conoscenza è stata grazie al cantautore poeta Roberto Ferri. Ci ha legato un progetto che era Tutta colpa dell'amore, che era un audiolibro che Ferri aveva fatto con la presenza di cantanti, attori, miscelandoli con poeti, artisti e così. Io avevo illustrato l'audiolibro e Alessio aveva pubblicato 2 o 3 poesie. Poi da lì, siccome questo audiolibro era legato proprio al sociale, ci siamo trovati in una serie di progetti. Il progetto principale che avevamo fatto era stato intanto abbiamo fondato un'associazione che si chiama I Colori delle Stelle e siamo partiti con 3 calendari solidali, e poi dopo abbiamo realizzato per la regione toscana al momento 3 libri su temi sociali, tipo il Pugni chiusi sul bullismo, di cui sei venuto anche a Coxo a presentarli, a quindi non, avendo poi Gensini, poi abbiamo realizzato anche volumi tipo L'amore al tempo del Covid, che è a portata di mano. Ma dunque Gensini, come fai a sopportare questo qua tu? Bene, perché io gioco sulle parole, lui sui colori, non vi accavallate, non ci accavalliamo e cerchiamo di fonderli bene insieme, anche con l'aiuto di altre persone che contribuiscono al progetto in essere, che ormai siamo già abbiamo bypassato i 10 libri, 10 pubblicazioni, ecco. Grande. E poi naturalmente vi aspetto a Coxo Spaziale per raccontarci tutto questo una di queste volte. Certo, un lunedì prossimo, quando se non quello prossimo, no, quello dopo comunque, no, perché tanto la mostra sta su fino al 2 novembre, per cui avremo modo di riparlarne. Sì, sì, o alla prossima uscita del prossimo libro, esatto. Noi veniamo volentieri, perché io ti ringrazio e ci vediamo a Coxo Spaziale quanto prima. Ti ti ringrazio Stefano. Hai capito? Beh, ma fantastico, tutti questi riferimenti alla, come dire, americani, le pelle americane, gli indiani. Mi hanno tirato la volata, mi ma hanno tirato la volata. Hai visto? Ma è fantastica questa cosa. Ma, vabbè, insomma, vedi, c'è una coerenza nella nostra trasmissione che è coxica. Che è quasi impressionante. No, invece stavamo notando che oggi c'è stato un terremoto a Macerata, l'hai saputo? Ah, no, non l'ho saputo. Cioè, 3,8 della scala Richter. Ah, perfetto, vabbè, allora vi per cui il cielo si è squarciato e hanno detto che Chiara Pergola sta arrivando, per cui facciamo così allora. Avevo un po' paura di questa cosa. Ma io, quello che io mi chiedo è la domanda naturalmente rivolta ad Alice: che cosa si può aspettare Chiara dalla Macerata? Allora, dipende anzitutto da quello che cerca Chiara da Macerata. Cosa cerchi da Macerata? No, vabbè, cerco che mi hanno chiamato, quindi io cioè, vado. Cioè, tu non cerchi niente, sono loro che hanno cercato te. Esatto, sono la Macerata che ha cercato me. Che Macerata c'è poco e niente ultimamente. Poi stavo leggendo che una volta c'era un minimo di movida il giovedì sera con le serate universitarie, però appunto ho letto che c'è stata una stretta a causa Covid, super multe, divieto vendita alcolici, quindi te fai il tuo lavoro, torni a casa, tipo lockdown. Te ne vai nell'alberghetto. Fai cena e vai a letto. Ti dirò la verità, io non ho sofferto molto, perché sono abbastanza già così di mio, per cui a parte la radio. Ma allora stai benissimo, che ti Macerata, fa soffrire, che non c'è niente. Esatto. La tua sofferenza con la radio è finita qui? No, beh, non mi fa soffrire la radio, okay. Mi dispiacerà molto di non venire, ma poi in realtà però comunque sì, lo stesso, no, infatti, alla fine. Figurati se ti togli dai piedi me. Sarai sempre con noi. Esatto. No, ma cazzate a parte, qualcosa da vedere di bello c'è adesso, cioè, anche ma nei dintorni. Mi dicono che c'è una splendida accademia di belle arti, adesso devo fare questa cosa, la devo certo. Con degli insegnanti veramente fantastici. Esatto. Che salutiamo caldamente. Esatto. Molto bene. Mentre Pasquini canta Tranne me, però va esatto, bene. Sì. Esatto. Ce la ricordiamo sta canzone? Ce la ricordiamo, sì. Sì. Un po' sì, questo sì. Comunque cercasi co-conduttrice. Scrivete scrivete nei prossimi 14 minuti al 333 180 94 94, oppure per email a coxospaziale@gmail.com. E poi se viene il terremoto magari anche più a lungo. Foto profilo come le vogliamo. No, sta buona, ma mi avete fatto arrossire. Arrossito perché è toccato sul suo punto debole, Alice. Ma perché mi conosce bene, capito? E dunque Daniele, ritorniamo a te. Ha tolto la parola, ragazzi. Ha tolto la parola, Pasquini. Ritorniamo a te, cos'altro ci racconti di queste pelli pirografate, giusto? E anche con la fiamma ossidrica. Ah, cavoli. Ma con la fiamma ossidrica non rischia di prendere fuoco tutto? Sì, vabbè, anch'io. Infatti, è per quello. È per quello che ti piace. Tentativo di diventare la torcia umana. Ma invece tu sei appena tornato da Trieste, non tanto perché sei un portuale e hai fatto che non ho visto mai, esatto, nessun portuale. Mentre perché hai partecipato a una collettiva, cioè adesso ti sta andando grassissima in questi giorni, sbaglio? Tutto merito di Luca Rossi, secondo te questa cosa? Forse è stato uno tsunami. Da Luca Rossi c'è stato uno tsunami. Tsunami di Luca Rossi, è incredibile. Tutti cosa. Voi Luca Rossisti avete avuto questo. Dopo Luca Rossi sono finito a fare le equidistanze a Ravenna alla Magazzero Gallery. Ah, vedi? Una settimana bellissima di residenza dove ho creato la giostra, che poi sono nate la giostra delle lune. Hai capito? Grande. E dunque non mancate di andare a vedere la mostra Ad Lunam di Daniele Capri allo studio Cenacchi, che è in via Santo Stefano numero 63. 63, grande che te lo ricordi, io non me lo sarei ricordato. Però quello. Questa è la puntata dell'oblio. Esatto. Stiamo sempre a ricordarci, rimembrare. E tu che cosa ci ricordi oggi, Alice? Cosa vi ricordo? Sì. Come stai il tuo cane? Il mio cane sta bene. Marvin, vedi, mi ricordo il nome. Oh, vedi, come fai a dimenticarti, infatti, quel cagnone bellissimo. Appunto. Ma salutiamo Pier Maria che ci sta ascoltando. Ah, era ci sta un ascoltando. Altro no, esatto, no, perché lui è il tuo fan numero uno e dunque quando tu arrivi a Coxo Spaziale giustamente ci sta ascoltando. Ma cos'è sta musichetta di sottofondo? Meravigliosa. L'hai scelta tu. L'ho scelta io. C'è un'impennata d'ascolti stasera, Pier Maria uno. Infatti, esatto. Ma forse c'è anche Giffo che salutiamo. Ma dai, ma due ascoltatori secondo me li mettiamo insieme. Ma forse anche che non sappiamo chi è. Guarda, l'estate scorsa eravamo arrivati a 15 perché c'era stato un addirittura momento. Non ti ricordi? No. Avevo fatto secondo te? Non ti ricordo. No, effettivamente come potresti, già che domande anch'io. Vabbè. Stefano vive la vita del cane, sul momento. Ma non eri tu quella? Sì, anche io, esatto. Sì, no, infatti io e Alice andiamo d'accordo su questo, viviamo la vita del cane. No, io personalmente vivo la vita di Dory di Finding Nemo. Infatti anche la musica di sottofondo vive la vita di Dory e niente, è così. E cosa Chiara, ci dovrai salutare come si deve, non posso salutare come si deve perché poi dopo sembra veramente magari lunedì prossimo ci sei di nuovo, chi lo sa. Ma alla fine forse lunedì prossimo magari no, però ok, così però almeno ti riposi un attimo. Quello dopo ci sono in differita farò uno speciale da Roma addirittura. Sì, okay. Andiamo a visitare il tempio del nostro nume tutelare, no? E quindi Pino Boresta certo, proprio lui intendevo. Intendevi lui naturalmente, anche se ha esposto lì vicino, Pino Boresta, insomma vicino in termini romani, lì vicino comunque, vabbè. Quindi sì, e poi dopo magari l'8 novembre forse ci rivediamo. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. Anche lei è delle vostre parti. Sì, ma sarà te, sarà Serena Brami. Posso fare uno stacchettino adesso se vengo meno, infatti. Magari potrei fare uno stacchettino anch'io. Potresti fare uno stacchettino anche tu. Sono Chiara Pergola e non sono a Coxo Spaziale. Lo faccio fare a tutti i miei studenti, dai. A tutti i tuoi, adesso vedremo come sono sti studenti, perché può anche darsi che non lo vogliano fare e che ti menino. Magari non glielo chiedo neanche. In realtà me ne parlano molto bene degli studenti di Macerata. Beh, certo, sono marchigiani. Marchigiani sono un pezzo avanti. Hai visto? Ma chi adesso che ce n'è una qua. Chi è che tamburella? No, sono io. Tutti e due noi. Perché io. Ma perché abbiamo. Io farei la performance, mi metterei a ballare, ma sdraiarmi. Cioè, io mi sdraiavo sui pavimenti, sui cose. Cosa fate di là? Che non ma vi no, vedo. Noi siamo qua che siamo. No, stava tamburellando perché ho messo la musica di sottofondo delle scine quando ancora esisteva questo programma che si chiamava Scina Is. Anzi, salutiamo Barbara, Elena e Giulia, che chissà dove sono finite in giro per il mondo, però. Cioè in realtà le seguo su Facebook, sai, ai bei tempi ballavo sui tavoli quando avevo la schiena buona. Ballavi con i lupi. Sì, con lupi. Ma io volevo sapere da Daniele, magari l'ha già detto, io mi sono un attimo distratta, cosa che capita spesso e anche volentieri, ma di dove sei esattamente? Sono esattamente di una frazioncina che si chiama Rocchetta. Che fa da spalla al comune che è Guiglia. Ah, Guiglia, sì. Ma quindi siamo sempre nei territori. Noi dovevamo andarci a Guiglia, però. Non ci siamo andati, anche perché Finotti si è dimenticato di noi e non ci ha invitato ufficialmente. Ma come non mi ha invitato? Non ci ha invitato ufficialmente. Proprio lì. E noi abbiamo fatto finta di dimenticarci, ma in realtà dovevamo andare a mangiare i burlenghi una sera. Il loro dimorare però è a Rocchetta. Proprio dove sotto io. Hai capito. Però i burlenghi io non li mangio perché c'è lo strutto. Ah. Vabbè, insomma, comunque sono una tanta. Però io ne facevo una versione. Vedi? Con il Gala Caffè. Perché mi piaceva dolce e riuscivo a il burlengo dolce no. Io l'ho creato. Io non posso seguire la tradizione. Scusate, c'è Alice che ha una domanda. Perdonate l'ignoranza. Di cosa state parlando? Di una cosa che è tipo luna, trasparente. Però si mangia. Si mangia. È tipo una piadina, però secca, secca. Leggera come un velo. Come un respiro. Come un respiro rappreso. Si vede che sono un po' modenesi, sti due qua. Ma dolce salata. È salato, però io ne ho fatto una versione al Gala Caffè unica. Il burlengo è una tigella concettuale, no? Sì. Cioè d'arte chiaro. Contemporanea d'arte proprio, ti fa impazzire. Diciamo. C'è l'idea della tigella, però in compenso c'è lo strutto. Ti lascia sempre vuoto e tu hai sempre fame e non ti soddisfa mai. E per cui ne mangi in continuazione. E siccome c'è lo strutto, il colesterolo. Le patatine quelle bianche a me fanno quell'effetto. Come effetto. Dopo si può andare alla White Dog Beer, che sta lì vicino sempre, a bere della gran birra artigianale. Cavoli, ho appena scoperto una cosa interessante, che anche la sigla di chiusura non funziona. Cantiamo noi. Esatto. Volete ma di solito la sigla finale, noi non abbiamo una non abbiamo una sigla finale, però abbiamo solo una dichiarazione del nostro fantastico in effetti posso anche fare questa cosa qua. Innanzitutto, questo era Coxo Spaziale, io ero Chiara Pergola come al solito e avevamo in studio Alice Muccichini e Daniele Cabri. Io prima di lui. Daniele Ismaele Cabri. Chiamatemi Ismaele, il più grande incipit della letteratura. Esatto, il grande Moby Dick che abbiamo qua immortalato in uno dei fantastici appunti che chissà se li vedrete mai. E io ero Stefano W. Pasquini, qua che per una volta si palesa e poi si dilegua e non lo si sente più. Esatto. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Che invece è il nastrone, non è la sigla finale. È Jenny Owen Youngs. La voce tu. We'll be right back. the brim. It's hard to not feel like I'm some part of him. Ooh, I know, can't hide from myself. I know there's still hell to pay. Now I'm the one paying. If we ever got done, we could go back to playing Dungeons and Dragons. Ooh, Dungeons and Dragons. Cockshow spaziale. Distance, a glimmer of what appears to be some ornate armor and a pair of eyes staring back at you. Roll for initiative. Oh, shit.